Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Chiara Santilli. Non dite a mia madre che faccio il pubblicitario. Lei mi crede pianista in un bordello. Ad affermarlo è Jacques Séguéla, che nella Francia degli anni Ottanta è una star consolidata del panorama del dietro le quinte mediatico. La sua agenzia pubblicitaria ha curato importanti campagne sia commerciali che politiche, supportando clienti quali Citroën, Louis Vuitton o il politico François Mitterrand. Un lavoro sporco, come si suol dire, ma qualcuno lo deve pur fare. Buongiorno. Buongiorno. Simon Fumagalli, head planner dell'agenzia pubblicitaria Calza Gandolfi, associata Partners e Figli. Sono qui per parlare con Gaio De Bernardi. La nostra azienda farà uno spot, che bello! Io e Paolo adoriamo la pubblicità. Come tutti. No, no, no, noi la adoriamo davvero, la amiamo proprio. Sì. Vuole vedere? Pannolini, gabardini, per i vecchi e i bambini come vuoi. Ma più nessuno sentirà gli odori tuoi. Gabardini, gabardini, sono noi. Bravi, che splendidi. Fate anche quella della camomilla, dai. Camomilla, camomilla, Musumeci. Se la bevi ti addormenti alle 10. La pubblicità, ovvero il regno degli slogan, dei jingle appiccicosi, della spudoratezza finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo commerciale. Come può questo universo all'apparenza così importuno e subdolamente seducente accostarsi al mondo invece puro e idealizzato dell'arte con la A maiuscola? Sarà il nostro primo protagonista di oggi a consentirci di fare un passo funambolico. Passeremo con agilità, dalla pubblicità all'arte, dalla tirannia degli utili all'amore per l'inutile per eccellenza. Il suo percorso di vita è quello di un uomo innamorato della creatività, non importa in quale forma. Dagli spot televisivi fino alle tele ad olio, tutto, purché si tratti di vulcanica esposizione delle proprie intuizioni, provocazioni, lampi di genio. Il nostro protagonista ha iniziato dalla pubblicità ed è approdato al mondo delle mostre, delle gallerie e dei vernissage. È proprio a uno di questi eventi che facciamo la sua conoscenza. Per incontrarlo, attraversiamo la Manica e ci spostiamo in Inghilterra. Siamo a Londra, è il luglio del 1988. In un vecchio edificio della zona dei Docklands, l'antico porto fluviale della capitale britannica, si inaugura una mostra intitolata Frieze. L'evento è organizzato da alcuni studenti del Goldsmith College, prestigioso ateneo londinese specializzato in discipline artistiche. Tra i quadri, le sculture e le svariate installazioni presenti nelle sale si aggira un uomo sulla quarantina, affascinato e incuriosito dagli innumerevoli pezzi d'arte che affollano l'ambiente. Quest'uomo, innamorato di quell'atmosfera così creativa e controcorrente, fino a un paio d'anni prima era il co-proprietario, oltre che il co-fondatore, di una delle agenzie di pubblicità più celebri del pianeta, la Saatchi & Saatchi. Poi la passione per l'arte lo ha travolto, rivoluzionando la sua carriera e le sue abitudini. Il suo nome è Charles Saatchi. Charles Saatchi. Fondatore nel 1985 dell'omonima Saatchi Gallery in Boundary Road a Londra, Charles Saatchi è un arguto e pungente ex devoto della pubblicità, ora particolarmente attratto dai lavori del giovane di ottime speranze e fervido ingegno che ha curato l'organizzazione della mostra sui Docklands. Non vogliamo ancora svelarvi il nome di questo artista in erba che nel torrido luglio del 1988 ha appena compiuto 23 anni ed è ancora alle prese con i piccoli grandi drammi della vita studentesca. Vi basti sapere che da questo momento in poi, ovvero dall'interessamento nei suoi confronti da parte del neo collezionista e gallerista Saatchi, la sua vita non sarà più la stessa. Ma come è arrivato un uomo del calibro di Saatchi nell'edificio diroccato che ospita la mostra di un manipolo di giovanissimi studenti alle prime armi, particolarmente appassionati e per questo decisi alla provocazione per scardinare le convenzioni dell'arte? Com'è che la sagace larguzia di uno squalo dell'advertising, eternamente votato e venduto alla soddisfazione del cliente, si sono trasformate in autentica passione per il bello e per l'inutile, uscito da un mondo dove gli utili contavano più di qualsiasi cosa? Per scoprire le origini dell'uomo, prima ancora che del pubblicitario e del collezionista, è bene fare un passo indietro nel tempo e uno al lato nello spazio. Ci spostiamo in Medio Oriente, la terra natale della famiglia Sacci. Baghdad, 9 giugno 1943. Sono il luogo e la data di nascita di Charles Sacci, primo figlio di una coppia di ebrei benestanti, residenti nella capitale irachena. In quest'epoca non è facile per una famiglia di origini ebraiche vivere a Baghdad. Le persecuzioni da parte dei musulmani più intransigenti sono già all'ordine del giorno. L'intolleranza, già alle stelle, è acuita verso la fine del decennio dall'autoproclamazione dello Stato di Israele. La delicata situazione sfocia nella guerra arabo-israeliana del 1948. A questo punto, per fortuna, i Sacci si sono già trasferiti a Londra nel quartiere di Finchley, grazioso sobborgo residenziale nella zona nord della città. Qui l'adolescente Charles frequenta il Christ's College, ma non si può certo dire che i libri siano la sua passione. Già da giovanissimo, infatti, ha le idee chiare, forte della consapevolezza dei propri limiti. Certamente sa quello che non vuole. A 17 anni, dopo due diplomi scolastici di base ottenuti in un paio di tentativi, immaginare una carriera era poco realistico, per non parlare di una chiacchierata informale con il consulente per l'orientamento del Christ's College, che dubito mi avrebbe riconosciuto, visto i miei record imbattuti in fatto di assenze. Le parole che avete appena sentito, tratte da un libro intervista di recentissima pubblicazione, sono il frutto dell'incessante opera di convincimento attuata per anni dalla temibile stampa inglese, ansiosa di accaparrarsi anche i più infimi brandelli del Sacci pensiero. Per decenni gli è andata male. Charles Sacci non ha concesso alcuna intervista e si è ben guardato dal farsi vedere troppo in giro. Un uomo famoso, suo malgrado, che non ama parlare né far parlare di sé. È l'esemplare di una specie rara nel rutilante mondo dei media. Il futuro del giovane Charles Sacci sembra già scritto. Se è vero che la scuola non è il suo forte, di certo l'intraprendenza non gli manca. Ho risposto ad un annuncio letto sull'Evening Standard per un posto, come ha detto, alle quietanze, in una piccolissima agenzia pubblicitaria di Covent Garden, a 10 sterline la settimana. Un giorno l'addetto all'ufficio creativo si diede malato e chiesero a me se me la sentivo di ideare un annuncio per un loro cliente. Un allevatore di galline. Dovevo motivare i contadini a scegliere i loro pulcini. Pulcini che, una volta cresciuti, avrebbero garantito tante belle uova economiche di qualità superiore, nonché un discreto profitto. Non avevo idea di come si scrivesse un testo pubblicitario. Mi misi a spulciare vecchie riviste specializzate, feci un mosaico delle parole che mi sembravano più promettenti e ci appiccicai uno slogan, credo rubato da una vecchia pubblicità americana, e partorii: chiedi a chi li ha già. Il cliente la comprò. Charles scopre di possedere un talento innato, quello per l'invenzione verbale e il guizzo creativo al servizio del prodotto. Letteralmente ossessionato dalla pop culture e da tutto quello che nasce e cresce oltre oceano, cresciuto a pane ed Elvis, Little Richard e Chuck Berry, Sacci trova nel suo amore per tutto quello che è statunitense la chiave per il successo. Dopo essere stato rifiutato come copywriter e in prova da diverse agenzie, dopo aver fallito nei colloqui di lavoro o anche solo nell'ottenerne uno, riuscii ad estrarre dal cilindro un appuntamento con Jack Stanley, il direttore creativo di Benton & Bowles. Dio solo sa perché accettò di incontrarmi o cosa vide nel giovane tontolone seduto di fronte a lui, ma era americano. Notò che sembravo andare pazzo per tutto ciò che fosse legato all'America o che conoscevo due o tre cose sulla pubblicità americana. E mi fece cominciare all'istante. Dopo il fulminante e inaspettato apprezzamento del suo primo slogan, Sacci affronta l'apprendistato in un'agenzia vera e propria. Ha ancora molto da imparare, ma il mestiere del pubblicitario sembra tagliato su misura per lui. Gli consente di esprimere liberamente la sua strabordante creatività, di dare corpo alle sue vulcaniche intuizioni senza per questo doversi esporre in prima persona. Sacci può restare dietro le quinte e lasciare che siano gli slogan a parlare per lui. Nel frattempo, la capitale del Regno Unito si anima come nessun'altra città al mondo. Sono gli anni 60, l'epoca della Swing in London, l'epoca in cui, se si parla di reclame efficaci e accattivanti, il nome a cui fare riferimento è uno solo, Collette Dickinson Pearce, ovvero CDP, l'agenzia pubblicitaria più influente alla moda in quegli anni pieni di fermento. È lo stesso Sacci, dalle pagine del suo libro, a parlarcene. La CDP era la più intelligente e provocatoria agenzia al mondo, specializzata in pubblicità tali da tenere gli spettatori incollati allo schermo in loro attesa. Ho avuto la grande fortuna di entrarci nel 1966. Fucina di talenti, tra cui spiccano tra gli altri i nomi altisonanti di Ridley Scott e Alan Parker, celebri registi di capolavori come Blade Runner e Fuga di Mezzanotte, la CDP presta il genio dei suoi dipendenti al servizio del vendibile. Cosa c'è di male nell'elargire le proprie doti al cliente in cambio di un ottimo compenso? Allo scadere degli anni 60, Charles Sacci si rende conto che l'esperienza maturata alla CDP gli consente di aprire un'attività in proprio. È così che nel 1970 fonda insieme al fratello Morris una nuova agenzia pubblicitaria. Dalla fusione di due menti, molte idee e due identici cognomi nasce la celeberrima Sacci & Sacci. Il mondo della pubblicità non sarà mai più lo stesso. Quello che davvero adoravo della mia agenzia era la dedizione fanatica alla felicità dei clienti, il disperato desiderio di arrivare al successo per loro e di avere il maggior numero possibile di clienti prestigiosi. La Sacci & Sacci non tarda a vedersi commissionate campagne di un certo peso. L'intelligenza di Charles ha fatto breccia nei cuori e nei portafogli di tutta l'Inghilterra. E nessuno ama il suo lavoro più di lui. Raccomando la pubblicità a tutti, specialmente se non si hanno manifeste doti accademiche. Sono soldi facili e ogni vostra più piccola abilità può essere messa a buon frutto. Che siano il fascino o l'intelligenza nell'accompagnare per mano il cliente, oppure le doti tecniche adatte al complesso mondo dell'acquisto di spazi sui media, o se proprio si deve, lo scrivere slogan e dichiarazioni effetto per politici assetati di potere. Ed è proprio in ambito politico che la Sacci & Sacci consolida la sua fortuna. Nella seconda metà degli anni 70, i fratelli più celebri del mondo della pubblicità curano la campagna del partito dei Tories, i conservatori inglesi, guidati dalla Lady di Ferro Margaret Thatcher. L'obiettivo è vincere le politiche del 1979, sbaragliando l'eterno nemico, il Partito Laburista. La Thatcher non nasconde di certo il suo disprezzo nei confronti degli avversari. They use their power against their members. Usano il loro potere per creare il caos, per fermare i padroni delle industrie manifatturiere, facendo correre agli operai il rischio di perdere il lavoro, per togliere la corrente e il riscaldamento alle case e ad ogni casalinga, bambino o pensionato. Vogliono le divisioni, il conflitto e l'odio. Ecco cosa vogliono. Il messaggio che si vuole trasmettere è che il Labour Party non è in grado di dare al paese ciò di cui ha bisogno. Per esprimerlo nel modo più efficace e incisivo possibile, la Sacci & Sacci conia lo slogan Labour isn't working. Il Labour non funziona. Giocando sul significato della parola work, che significa sia lavorare che funzionare, connessa a Labour, il nome del partito di sinistra che dovrebbe per l'appunto essere più sensibile alle tematiche delle classi proletarie e lavoratrici. Il successo della campagna è senza precedenti e il nuovo ritornello politico è già sulla bocca di tutti. La creatività dei pubblicitari, spintasi sul terreno della politica, miete consensi addirittura inaspettati. Il gioco di parole pensato dai Sacci funziona a meraviglia, teso com'è a sottolineare il legame tra Labour, il nome del partito avversario, e Work, in inglese lavoro. Coloro che si proclamano paladini dei lavoratori non sono dei buoni lavoratori in sostanza. Il messaggio è chiarissimo. Lo slogan breve, semplice ed efficace. La campagna Labor Isn't Working è proprio quello che ci vuole per accaparrarsi il consenso della maggioranza della popolazione. Nel maggio del 1979 la vittoria del Partito Conservatore è schiacciante e inaugura la lunga stagione thatcheriana che si protrarrà per oltre un decennio. Alle soglie degli anni Ottanta la Saatchi & Saatchi ha davvero fatto il botto, come si suol dire. Si aggiudica campagne importantissime da numerosi clienti, tra cui British Airways e Silk Cut, un noto brand britannico di sigarette. La collaborazione con un'industria del tabacco non impedirà certamente a Saatchi di avere a che fare anche con la concorrenza, se così si può chiamare. La Saatchi, infatti, accetta contemporaneamente l'incarico dal Ministero della Salute inglese per la campagna antifumo. Come dire, pecunia non olet. Una volta mi sono anche gettato a capofitto in una campagna su commissione del Dipartimento della Salute. Ho visitato corsie d'ospedale con malati di enfisema, ho studiato le foto di tumori al polmone ed ho elaborato il testo più raccapricciante che potessi. Tutto ciò fumando allegramente una sigaretta dopo l'altra. Davvero commovente pensare che i testi pubblicitari vengono dal cuore. Di certo le regole etiche non sono in cima alla lista delle preoccupazioni di un buon pubblicitario, il cui primo pensiero, solitamente, è teso alla ricerca dell'originalità, dell'immediatezza. Eppure Charles Saatchi non è un pubblicitario qualunque. È una celebrità, eppure preferisce non farsi mai vedere. Guadagna una montagna di soldi, ma non li spende certo in barche o automobili di lusso. La passione nascosta di Charles Saatchi, il pubblicitario, è ben altra. E non ha nulla a che fare col suo mestiere. La sua passione si chiama arte. Essere stupidi a quanto pare non ostacola una carriera in pubblicità. E ovviamente puoi essere stupido come una zucchina per comprare arte giorno e notte. Chiamalo stupido. Saatchi accumula opere come fossero francobolli. La sua furia di compratore d'arte inizia proprio negli anni del boom dell'agenzia pubblicitaria. Che il suo sia un modo per esorcizzare il culto degli utili e dei profitti, contrastandolo con la forza e la bellezza dell'inutilità intrinseca nei quadri, nelle sculture e nelle installazioni. Tutta l'arte è completamente inutile, diceva Oscar Wilde nel ritratto di Dorian Gray, ma è proprio questo il suo bello, o no? E come Charles Saatchi sa perfettamente, il passo da estimatore a compratore e dunque a collezionista è assai breve. Avevo delle cose sparse e le appendevo alle pareti, ma al primo acquisto di qualcosa che non può stare in casa e che deve essere conservato in un deposito, lì si diventa ufficialmente un collezionista. Nel 1985 apre al pubblico la Saatchi Gallery di Boundary Road nell'elegante quartiere di Chelsea, a Londra. A quanto pare è l'unico modo possibile per riunire le tante opere d'arte altrimenti ammassate sul pavimento di casa Saatchi. Charles Saatchi il pubblicitario poco alla volta cede il passo a Charles Saatchi il collezionista. Entrambi sono arguti, amano stupire e stupirsi. Entrambi hanno l'occhio e il fiuto per riconoscere ciò che è vincente. Mi piaceva lavorare in pubblicità, ma il mio gusto artistico, per quello che vale, non è stato formato interamente dagli spot. E non mi sento particolarmente in contraddizione se un giorno apprezzo un Mantegna e il giorno seguente un Carl Henry e quello dopo ancora il lavoro di uno studente. Ed è proprio il lavoro di una manciata di studenti del Goldsmith College of Art che Saatchi è venuto ad ammirare nel afoso luglio del 1988 in una mostra sui Docklands londinesi. In particolare Saatchi è attratto dal lavoro del giovane organizzatore della mostra, che consiste in una serie di semplici scatole di cartone dipinte con vernici sgargianti, coloratissime, addirittura ipnotiche. La creatività strabordante di questo giovane, in conseguenza dell'incontro con Charles Saatchi, è destinata a esplodere producendo una deflagrazione senza pari nel mondo dell'arte contemporanea. Il fiuto di Charles Saatchi non sbaglia. Questo ragazzo non solo farà strada, ma in molti sensi cambierà il corso dell'arte per sempre. Destini incrociati. Destini incrociati è a Londra, allo scadere degli anni Ottanta. Il noto pubblicitario Charles Saatchi coltiva la sua nuova sfrenata passione per l'arte. D'altra parte, il mondo della pubblicità negli anni a venire non sarà più la stessa gloriosa fucina di creatività di cui la Sacci & Sacci era stato l'esempio più brillante. Io faccio questo mestiere da più di 30 anni e ti posso assicurare che non è uno scherzo, diventa più difficile di giorno in giorno. Gli 80 furono anni di gloria. Si parlava solo di alcolici, tabacco e macchine. Quello sì era pane per i miei denti. Ma negli anni 90, a un tratto, non sono stati più gli uomini a decidere come si spendono i soldi e noi siamo finiti col culo per terra. La commedia What Women Want ha dipinto il quadro della situazione. Negli anni 90 il mestiere del pubblicitario non sarà più lo stesso e Charles Sacci non può fare a meno di intuirlo. Il compito di stimolare il suo ingegno dovrà essere esaudito da qualcos'altro. È a questo punto della vita di Sacci che avviene l'incontro più importante, che è destinato a cambiare per sempre la sua prospettiva di appassionato e di collezionista. Quella sera d'estate del 1988 a Londra fa caldo. I tacchi a spillo delle signore accorse all'inaugurazione di Frieze, mostra d'arte contemporanea sui Docklands della capitale britannica, affondano nell'asfalto come coltelli nel burro. C'è tutta la collezione dei cliché dei vernissage. Vino scadente in quantità, tartine meste e rarefatte, chiacchiere a volontà profuse da bocche charliere e incompetenti. Sono tutti lì per puro gusto di esserci. Ben pochi sanno di cosa parlano. E ben pochi conoscono il valore di quello che vedono. Charles Sacci, invece, si distingue da qualsiasi massa. I suoi occhi non riescono a staccarsi dai lavori di un 23enne studente del Goldsmith College, arguto, provocatore. Il suo nome, di lì a qualche tempo, riempirà le bocche di tutti gli intenditori e non solo di arte contemporanea. Questo ragazzo si chiama Damien Hirst. Hirst è alle prime armi. Eppure Sacci vede in lui e nella sua furia espressiva un immenso potenziale bisognoso e meritevole di attenzione. Per conoscere meglio le origini di questo strabordante talento, facciamo un passo indietro. Damien Hirst nasce nel 1965 a Bristol, nel sud-ovest dell'Inghilterra. Il padre abbandona la famiglia quando Damien ha 12 anni e alla madre tocca crescere da sola un ragazzino piuttosto turbolento, avvezzo alle stranezze e alla ribellione. Non per niente il suo personale manifesto negli anni dell'adolescenza è Anarchy in the UK dei Sex Pistols. La madre di Damien su questo fronte sembra non essere affatto d'accordo. Critica ossessivamente il suo modo di vestirsi e comportarsi. Un giorno riesce persino a rubargli un vinile degli amati Sex Pistols e a fonderlo sui fornelli. Su una cosa i due vanno d'accordo. Damien mostra fin da giovanissimo un'innata passione per il disegno e la madre è felice di assecondarlo. Incoraggiato da lei e dai professori che a scuola notano la sua straordinaria abilità con la matita, Damien prosegue gli studi nelle discipline artistiche che tanto gli sono congeniali. Il suo spirito ribelle ed anticonformista non può che risultarne enormemente gratificato. L'esperienza nel mondo dell'arte, tuttavia, non si rivela una passeggiata. Hirst comincia in salita, consapevole di doversi guadagnare il suo posto nell'Olimpo della creatività. Per ben due volte viene rifiutato in due scuole differenti, al Leeds College of Art and Design e alla Goldsmith di Londra, dove riesce a entrare solo al secondo tentativo. Il suo temperamento nervoso, ribelle e irrequieto lo rende certamente vulcanico sul piano della produzione di idee, ma di certo il suo non è un carattere facile da gestire. Eppure tutta quella tensione è perfetta per essere convogliata e riversata su una tela o in una scultura. Ed è proprio a questo che Damien sceglie di dedicarsi anima e corpo. Nella categoria dei cosiddetti artisti, che già di per sé non è una categoria comune, Hirst vuole essere un anarchico, un outsider. Punta a sconvolgere le regole del gioco, alla sua maniera. L'intraprendenza, la foga di Hirst sono evidentissime sin dagli anni della Goldsmith. A poco più di 20 anni, le idee chiarissime e una grinta da vendere. Il suo insopprimibile istinto creativo lo porta a pensare in grande, fin da subito. Il giovane decide, insieme ad alcuni suoi compagni di studi, di organizzare una mostra in un vecchio edificio dismesso dei Docklands londinesi. L'evento si intitola Frieze. Michael Craig Martin, stimatissimo docente della Goldsmith School, per l'occasione chiama raccolta alcune delle sue conoscenze nel campo degli estimatori, dei compratori, dei finanziatori d'arte. Tra essi non può certo mancare Charles Saatchi. Saatchi è folgorato dall'estro di Hearst. Benché ancora vagamente prematuro, il ragazzo mostra già tutti i segni ben distinguibili del genio artistico. Il collezionista annota mentalmente il suo nome. Questo non tarderà certamente a ripresentarsi alla sua attenzione. Altrettanto presto si rifarà vivo il talento di Damien, ma questa volta in forma più complessa e, possiamo davvero dirlo, sconvolgente. Sono passati un paio d'anni. È il 1990, quando Hearst e il suo amico Carl Friedman allestiscono un'altra mostra a Londra, in una vecchia fabbrica di biscotti ormai in disuso. Charles Saatchi, memore della passata folgorazione per Hearst, si presenta puntuale all'appuntamento. L'opera chiave della mostra è un'installazione dello stesso Hearst dal titolo A Thousand Years, letteralmente un centinaio d'anni. Costituita da una grossa teca di vetro contenente una testa di mucca in decomposizione, circondata da vermi e farfalle. Decisamente provocatorio e dunque perfetto per attrarre l'attenzione di un creativo consumato che nel corso di un'intera carriera ne ha viste di cotte e di crude. Saatchi resta letteralmente sconcertato dall'opera che sta davanti ai suoi occhi. È un'attrazione irresistibile, sospesa tra la curiosità e la ripugnanza. Secondo il suo fiuto da collezionista, nonché da esperto conoscitore del mercato in generale, Hearst ha i numeri giusti per diventare un fenomeno. E non è solo questione di bravura. Il talento da solo non garantisce il successo, né spiega perché alcuni artisti mediocri diventano mostruosamente popolari per un po', mentre artisti migliori deperiscono aspettando una chiamata che non verrà. Il talento non basta. È lo stesso Saatchi a ricordarcelo. Quello che serve è un mecenate, qualcuno che sia disposto a finanziare qualsiasi follia accenda la mente e lo spirito di un artista. E Charles Saatchi, ipnotizzato dalla provocazione di Damien Hearst, si dichiara entusiasta di esaudire in termini economici qualunque suo capriccio artistico. Il risultato della generosità di Saatchi, combinata al talento e all'anarchica sfacciataggine di Hearst, si traduce in una mostra di importanza capitale per l'arte contemporanea. È il 1992 e alla Saatchi Gallery vengono esposti i lavori di un nuovo collettivo di giovani artisti, gli Young British Artists. Hearst ne è l'esponente di spicco. Gli Young British Artists hanno rappresentato un momento unico nell'arte britannica. Un po' come i Beatles, i Rolling Stones, i Sex Pistols sono stati una svolta per la musica inglese. Nell'Inghilterra dei primi 90, i Blur e gli Oasis hanno rimpiazzato i Beatles e gli Stones. E l'energica anarchia dei Sex Pistols è perfettamente incarnata da un artista che ama sconvolgere le regole della tradizione. Se il primo vero exploit di Hearst è rappresentato da una testa di mucca in decomposizione, supremo monito sulla caducità di tutte le cose, allora chissà quali altre incredibili provocazioni sarà in grado di regalarci, una volta ricevuta la benedizione del collezionista più coraggioso in circolazione. Charles Saatchi lo sa bene. Nel mercato dell'arte, come in quello della pubblicità, l'unico modo per sopravvivere è essere decisamente spudorati. Destini incrociati. All'inizio degli anni 90, gli Young British Artists, capitanati da Damien Hearst, si impongono sulla scena artistica prima londinese, poi inglese e quindi mondiale, grazie alla forza dirompente e provocatoria delle loro opere. Charles Saatchi, ex pubblicitario devoto all'arte, ospita nella sua galleria la mostra che sancisce la nascita del movimento e la consacrazione del suo capostipite Hearst. L'approccio di Sacci al mondo dell'arte potrà sembrare poco ortodosso, ma chi ha detto che l'arte con la A maiuscola non possa essere trattata come qualunque altro oggetto del desiderio, ovvero reclamizzata come fosse il brand di un whisky, di una compagnia aerea o di una marca di sigarette? Come ci insegna la celebre serie televisiva Mad Men, persino la nostalgia può essere ridotta a bene di consumo. Beh, la tecnologia è un richiamo scintillante. Ma a volte il pubblico può essere catturato da qualcosa che va al di là di un lampo, se si riesce a legarlo sentimentalmente al prodotto. Il mio primo lavoro l'ho fatto per una pellicceria insieme a un vecchio copywriter greco di nome Teddy. E Teddy diceva che la cosa più importante in pubblicità è la novità, che crea un desiderio. Non si può lanciare qualunque prodotto come se fosse una lozione. Per questo bisogna creare un legame più profondo col prodotto. La nostalgia è delicata, ma potente. La nostalgia e il detersivo per pavimenti, l'arte e i biscotti per la colazione possono essere collocati sullo stesso piano? I pubblicitari ce l'hanno un cuore? Di certo hanno un cervello e, come nel caso di Charles Sacci, un senso estetico assai sviluppato. E un fiuto per gli affari che non sbaglia un colpo. Una marea di lavori ambiziosi di giovani artisti vola nella spazzatura appena uscita di fabbrica. Una vetrina con una testa di mucca in decomposizione, coperta di vermi e da un nugolo di mosche ronzanti, può essere decisamente poco vendibile, finché l'artista non diventa una star. A quel punto vende qualsiasi cosa sfiori. Sacci ha fiutato, intuito e agito per trasformare Hearst in una star. Ora al suo pupillo non resta che dar libero sfogo alla propria creatività. Via libera dunque all'opera dal forse pretenzioso ma certamente affascinante titolo L'impossibilità fisica della morte nella mente di un essere vivente. L'installazione consiste in un'enorme vasca di plexiglass contenente uno squalo tigre di quasi 2 metri immerso in una soluzione a base di formaldeide. Vita e morte convivono dietro la stessa lastra trasparente. Non c'è dubbio sul fatto che lo squalo sia morto, eppure il fatto che se ne stia sospeso in un liquido azzurrognolo, con le fauci spalancate quasi fosse in atto di cacciare la sua preda, non può non scatenare nello spettatore la sensazione che il confine fra l'esserci e il non esserci sia estremamente sottile. Le installazioni di Hearst, che spesso hanno per oggetto cadaveri di animali, all'occorrenza sezionati, in modo da poter osservare sia l'esterno che l'interno dei corpi, sono inevitabilmente destinate alla scomparsa. I liquidi e le varie sostanze utilizzate per la conservazione, infatti, rallentano soltanto il processo di decomposizione che porterà, in un modo o nell'altro, alla disgregazione definitiva delle opere. La morte, la disgregazione, la fine di tutte le cose, costituiscono una vera e propria ossessione per Hearst. Eppure non si deve credere che il suo sia un carattere ombroso, introverso. Al contrario, Damien Hearst è piuttosto un furbo venditore di se stesso, di certo geniale e talentuoso, ma sicuramente aiutato da grosse dosi di scaltrezza e fiuto. E questo fiuto non può che averlo ereditato dal suo scopritore e mentore, Charles Sacci, il cui piglio da ex squalo della pubblicità resta inalienabile. E Hearst in persona a intervenire sull'argomento. Molte persone credono che un artista debba essere un uomo sofferente, cosa che credo sia piuttosto triste. Forse l'ispirazione viene dalla sofferenza. Ma forse per voi cristiani cattolici. Io credo che quei tempi siano finiti. La vita è così eccitante, ricca di avvenimenti. Da Andy Warhol in poi non è più un delitto se un artista è un uomo ricco. Già, il denaro. Se per un pubblicitario non è un tabù arricchirsi vendendo le proprie idee al miglior offerente, perché dovrebbe esserlo per un artista? L'inutile non è poi così lontano dagli utili, a ben guardare. Il rapporto di Hearst col suo enorme successo e di conseguenza col denaro che da esso deriva è cominciato all'inizio degli anni 90 e proseguito con alterne ma esaltanti fortune sino ad oggi. I termini di questa eterna relazione, quella tra l'uomo e i soldi, sono compiutamente sviscerati nel 2007, anno della realizzazione dell'ennesima opera dal titolo vagamente enigmatico e decisamente provocatorio For the Love of God. Hearst ci fornisce un indizio sulla natura dell'oggetto. Alcuni lo hanno paragonato ad una palla da discoteca di diamanti. Di fatto, si tratta di una scultura che riprende un tema caro alla tradizione, quello della vanitas, o del cosiddetto memento mori. L'oggetto in questione, infatti, è un teschio, da secoli simbolo pittorico della caducità delle cose, tanto cara a Hearst. La nobile preoccupazione per la natura sfuggente e transitoria della vita si unisce qui a un'ansia molto più pratica e terrena, quella per il denaro. L'unica cosa a cui ho dovuto pensare è stato raggiungere il massimo in termini di soldi e ricchezza e trovare il modo più eclatante per buttarli via. Molta gente ricca lo fa. Il mio teschio di diamanti parla di questo. Cosa c'è al mondo di più scintillante, inutile ed esteticamente appagante di una cascata di diamanti? Hearst ne ha incastonati la bellezza di 8601 in un vero teschio umano, fondendoli insieme con generose dosi di platino. L'opera viene esposta alla galleria White Cube di Londra e messa in vendita alla cifra record di 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, ovvero il prezzo più alto mai pagato per aggiudicarsi l'opera di un artista vivente. Niente a che vedere con gli stenti di tanti suoi colleghi del passato. Hearst, invitato a un'esposizione di quadri fiamminghi, commenta così il loro infelice destino. Questi sono dipinti di artisti olandesi famosissimi, tutti morti poveri. Tutti? No, non possono essere tutti morti poveri. Beh, che peccato. Lei vedrà di far meglio, no? Beh, certo, non dovrei. Mi sembra sempre una tragedia quando penso che Van Gogh non ha mai venduto un quadro in tutta la sua vita. Il problema di certo non tocca Damien Hearst, la gallina dalle uova d'oro di Charles Saatchi. Anche se il loro rapporto artista-mecenate si è concluso a metà dello scorso decennio, l'impronta dell'uno sull'altro resta ben visibile. E la spregiudicatezza, l'immenso gusto per la provocazione di Hearst, ricorda da vicino i fulminei e fulminanti slogan coniati dall'ex pubblicitario. Ma lei è un artista o un businessman? What do you think? Lei cosa crede? A businessman, of course. Un businessman, ovviamente. Un astuto businessman è un artista geniale, uno scaltro pubblicitario e un raffinato collezionista. Non necessariamente queste istanze fanno a pugni l'una con l'altra, eppure secondo Saatchi il destino è già scritto. Saranno in pochi a sottrarsi alle grinfie della futura revisione critica. I libri di storia dell'arte del 2105 saranno spietati con la fine del XX secolo, tranne Jackson Pollock, Andy Warhol, Donald Judd, Damien Hearst. Chiunque altro sarà una nota a piedi pagina. E se davvero fra 5 o fra 100 anni Damien Hearst sopravviverà alla spietata furia recensoria dei critici d'arte, non sarà solo in virtù del suo talento, ma grazie alla benedizione di Charles Saatchi, uno dei più astuti e caparbi esperti di immagine che la modernità ricordi. Vi ha presentato Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.